Nel libro dei Proverbi ci è una sentenza in merito alla vita dell'uomo che fa riflettere. Anche ridendo il cuore può essere triste, e la gioia stessa può finire nel dolore. 14 e 13. Come sempre, la parola di Dio non dà illusioni o false speranze, ma guarda in faccia alla realtà. La vita dell'uomo è composta di momenti felici e tristi, ma il proverbio che abbiamo citato mette in evidenza che anche quando mostra di essere contento, l'uomo può avere della tristezza nel cuore. E non solo. Quando si è contenti, non vi è nessuna garanzia che questa gioia possa durare, perché a volte questa gioia si può tramutare in dolore. Conclusione. In questa vita vi è più tristezza di quanto pensiamo. Proprio perché la tristezza è all'ordine del giorno, proprio perché è un'esperienza che tutti facciamo, è opportuno valutarla alla luce della parola di Dio. La prima considerazione che fa la Scrittura riguardo alla tristezza è che essa è preziosa e utile. E meglio andare in una casa dove c'è che è lutto, che andare in una casa dove si fa festa, perché quella è la fine di ogni uomo, e chi vive vi porrà mente. La tristezza è preferibile al riso, perché davanti a un volto triste il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è in una casa di lutto, ma il cuore degli stolti è in una casa di allegria. Ecclesiaste 7:2-4. L'autore del libro dell'Ecclesiaste non si presenta come un credente, anche se è un credente, ma fa semplicemente delle riflessioni in merito alla vita dell'uomo e ha constatato che alla fine tra la gioia e la tristezza è preferibile alla gioia. Non che egli faccia un culto alla tristezza, che abbia inclinazioni masochiste, perché poco prima aveva dichiarato che per l'uomo non è nulla di meglio che mangiare e bere e godersela nella sua fatica. 2:24, ma nonostante questo è meglio la tristezza. E ne dà le motivazioni. Poiché la fine di ogni uomo è la morte, poiché è bene prepararsi ad essa, la tristezza aiuta a riflettere. È una strettoia che migliora un cuore che è per inclinazione naturale portato al male, ad allontanarsi da Dio. Perciò, se non vi è nulla di meglio per un uomo che gioire in questa vita, la tristezza è il meglio del meglio e di conseguenza preferibile alle risate. Scrivendo la sua seconda lettera alla Chiesa di Corinto, l'Apostolo Paolo si era reso conto che nella sua prima lettera aveva contristato alcuni credenti, così con la caratteristica che sempre lo ha contraddistinto, molto schiettamente esprime il suo parere. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. 2 Corinzi 7:9. L'Apostolo non si era rallegrato perché i credenti di Corinto erano stati rattristati, ma per il fatto che la tristezza provocata dalla prima lettera aveva prodotto in loro un santo ravvedimento. E questo perché egli era cosciente, come tutti noi, che di tristezze ce ne sono di due tipi: quella che produce Dio mediante lo Spirito Santo e quella che provoca il mondo. Se di tristezze ce ne sono di due forme, allora come distinguere la tristezza che proviene da Dio da quella che procura il mondo? Se non sappiamo rispondere a questa domanda, molto probabilmente viviamo una vita confusa, perché ogni giorno abbiamo occasione di essere tristi. E se non sappiamo distinguere le due tristezze, saremo portati a cacciare quella giusta per ritenere quella ingiusta. Come spesso succede nel campo della fede, quando si devono comprendere le cose, poiché si deve navigare nello spirituale, la reazione più saggia è considerare i risultati o i frutti. Nulla di nuovo. Gesù stesso, quando disse di guardarci dai falsi profeti, ci ordinò di considerare i loro frutti, perché evidentemente il loro parlare nascondeva abilmente la menzogna. Quali sono i frutti della tristezza? Secondo Dio. Impossibile elencarli tutti, ma essi comunque condurranno sempre verso Gesù Cristo. Non esiste nessun frutto dello Spirito Santo, compresa la tristezza, che porti lontano dal Dio che si è rivelato in Cristo Gesù. Paolo, disse ai Corinzi, infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scusa e quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale soddisfazione. Corinzi 7:11. Questo fatto dovrebbe aiutare i figli di Dio nelle loro relazioni, facendo comprendere loro che parlare da parte di Dio non significa sempre recare gioia, ma, quando è necessario, con dolore e solennità, e anche produrre contrizione. Anche l'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Proverbi 3:12. La tristezza è una figlia del peccato che Dio ha trasformato in una benedizione. Anche la tristezza che produce il mondo si manifesta sotto varie forme, e la parola di Dio ha molto da dirci. Leggiamo nel libro dei Proverbi: lo spirito dell'uomo lo sostiene nella sua infermità, ma chi può sollevare uno spirito abbattuto? Proverbi 18:14. E ancora, un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. Proverbi 17:22. Purtroppo, dato che in genere le persone disconoscono il valore dello spirito dell'uomo, negandolo o disprezzandolo, non comprendono l'origine di tante malattie e cause di tristezze. Quando si hanno delle difficoltà o si vivono delle situazioni drammatiche, ciò che conta non è tanto il dolore che queste cose procurano, ma l'atteggiamento che si ha. Quando si ha uno spirito gaio, quando si ha un atteggiamento comunque positivo, ogni situazione negativa viene affrontata in modo costruttivo, ma quando si è abbattuti, senza speranza, quando si è comunque negativi, questo atteggiamento si ripercuote nel nostro fisico con depressioni o esaurimenti. Molte malattie che le persone hanno sono il risultato di uno spirito abbattuto e disperato, sono la conseguenza di peccati dello spirito come l'orgoglio, l'invidia, il rancore, l'odio, e contro tali cose non vi è rimedio. Con cosa si può liberare l'odio nel cuore di una persona? Sono forse i farmaci. Chi è in grado di togliere l'orgoglio e l'invidia nell'animo di una persona? Può farlo il dottore, lo psicologo, lo psicanalista. Solo il Figlio di Dio può compiere il miracolo di guarire uno spirito ferito. Come può l'uomo guarire nello spirito se non crede né alla sua realtà né al suo valore? Non ci è rimedio e l'uomo precipita sempre più nella tristezza. Come sempre, leggiamo nel libro dei Proverbi: tutti i giorni dell'afflitto sono cattivi, ma per un cuore contento è sempre festa. 15:15. Il Dio che ci ha creati ha sparso ovunque delle gioie e dei piaceri, ma per chi è triste e avvilito tutto è ragione di lamentela e di sofferenza. È molto più conforme alla nostra natura malvagia lamentarci che riconoscere le benedizioni che riceviamo ogni giorno. La tristezza impedisce di godere ciò che la vita ci offre. Infatti, come sta scritto, chi canta canzoni a un cuore afflitto è come chi si toglie il vestito in un giorno di freddo e come aceto sulla soda. Proverbi 25:20. A nulla servono parole buone e consolatrici per chi è afflitto nello spirito, se non ad aumentare la loro afflizione. I cristiani sono gli unici a saper convivere nel modo giusto con la tristezza. Se essa procede dal mondo, cioè come conseguenza dei loro errori o per compromessi illeciti, allora si umiliano, chiedono perdono, abbandonano ciò che è sbagliato. Se invece la tristezza procede per la fedeltà a Dio, essi si rallegrano perché questo è un dono. Dobbiamo ricalcare che il messaggio della parola di Dio è un messaggio di gioia, di appagamento e di speranza, ma non sarebbe completo se si tacesse sulla tristezza. Quando una persona pone fede nel sacrificio di Cristo credendolo sufficiente per essere giusto davanti a Dio, egli diventa un figlio di Dio, instaurando con la divinità, per mezzo di Gesù Cristo, un rapporto di figliolanza. Questo rapporto non è esente da tristezza. Anzi, proprio per questo tipo di rapporto, un figlio di Dio, per le correzioni che riceve, è portato a non rallegrarsi. L'autore della lettera agli Ebrei lo dice espressamente: Ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo, Ebrei mezzogiorno e 11. La famiglia di Dio è una scuola che esige dei figli che assomigliano al Padre. Certo, nessuno di noi sceglierebbe volontariamente di essere disciplinato, come nessuno sceglierebbe ciò che fa soffrire, ma dopo aver ricevuto una correzione adeguata, spunta la felicità. E su questo tema Gesù ha abbondantemente insegnato. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Matto 5, 10-11. La fede in Gesù non ci insegna solo ad essere fedeli e soffrire, ma anche a rallegrarci. Se la sofferenza e la tristezza non ci è risparmiata nel campo di Dio, la felicità ci è moltiplicata. Gesù disse a coloro che erano felici perché avevano autorità sulle potenze malefiche: «Non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». Luca 10:20. Abbiamo iniziato dicendo che la tristezza è una realtà quotidiana per tutti. Abbiamo detto che la gioia può finire in dolore. Abbiamo considerato che la tristezza procura molti malanni. E per questo Gesù ci ha dato la cura necessaria: rallegrarsi perché apparteniamo a Dio. È evidente che il discorso Gesù lo ha rivolto a coloro che lo seguivano, a coloro che avevano rinunciato a ogni diritto sulla loro vita per compiere la volontà di Dio. Solo così è possibile combattere e soprattutto convivere positivamente con la tristezza, perché dove splende sempre il sole vi è un deserto. Novembre 2004 Ellero.